Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Vi stavo aspettando e insieme a me vi stava aspettando anche il nostro sommario. A tavola comanda la pancia o il cervello? Chi gesticola ha una marcia in più? La ricerca lo dimostra. Calazio, quel piccolo e fastidioso rigonfiamento sulla palpebra. Ciao cervello, chi dei due comanda e condiziona le nostre scelte alimentari? Mangiamo per gola, per fame, per abitudine? Mangiamo solo quello che ci piace o quello che ci fa bene, ad ore fisse o quando capita? Oggi direi, cari amici, proviamo a mangiare insieme, ci state? Allora io comincio subito a presentarvi gli altri invitati. In linea con noi ho il filosofo del gusto, il cuoco italiano per eccellenza, la guida per i giovani cuochi e non solo. In linea con noi abbiamo Gualtiero Marchesi, buongiorno maestro. Buongiorno a tutti. Maestro, lei da sempre sostiene e soprattutto insegna che la cucina deve essere innanzitutto salute. Sì, ma infatti mi ricordo sempre una frase di Ippocrate che diceva: rendere sani i cibi predisponendoli per la digestione attraverso il modo di prepararli. Mi pare che ci sia dentro tutto. Allora io voglio presentarvi gli altri ospiti di oggi. Abbiamo in linea il dottor Maurizio Koch, direttore dell'unità complessa di gastroenterologia all'azienda San Filippo Neri di Roma. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie di avermi invitato. In linea abbiamo anche il dottor Neri, neurologo e vicepresidente della Società dei Neurologi, Neuroradiologi e Neurochirurghi Ospedalieri. Buongiorno anche a lei. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a chi ci ascolta. Allora, tre esperti con cui discuteremo di biochimica, profumi, fisiologia, ricordi, sapori, colori ed emozioni, perché il cibo è tutto questo. Dottor Neri, oggi lei sarà il nostro cervello. Mentre il dottor... È un impegno un pochino gravoso, ma comunque cercherò di fare del mio meglio. Il dottor Koch sarà la nostra pancia. Certo, certo. Ecco. E Gualtiero Marchesi sarà tutto il resto, il cibo che parla alla pancia e al cervello, suscitando delle emozioni. Il cibo non è solamente, quello, diciamo tante volte, calorie. Allora, dottor Neri, iniziamo ad entrare nella parte. Come pensa di interagire con gli altri due ospiti, pancia e cibo, alias dottor Koch e il maestro? Beh, col fatto che noi siamo una specie di animali che da alcuni milioni di anni lo facciamo più o meno consapevolmente tutti i giorni della nostra vita, nel senso che da quando stavamo nelle caverne e cacciavamo con la clava gli animali soltanto per la sostentazione, abbiamo fatto un po' di passi avanti e quello che forse ci interessa più oggi per la vita dei nostri giorni nei paesi occidentali abbastanza ricchi e quale contenuto di significati noi mettiamo nel comportamento alimentare e nel alimentarci. Dottor Koch, anche lei in qualità di pancia ci racconterà tante cose, come fa d'altronde la nostra pancia ogni giorno. In alcuni momenti in particolare della giornata sappiamo che borbotta, si lamenta quando è vuota, si rasserena quando è sazia, ma a volte diventa di cattivo umore, specie se la gola ha preso il comando. Certo. Vorrei un attimino rimettere a fuoco il discorso della pancia, che mi sembra leggermente riduttivo, e vorrei prendere questo ruolo del cervello intestinale, Nicoletta, se sì, permette. Sì, il secondo perché, cervello, certo, dottor ecco, Koch. Perché la cosa è molto importante, mi permette di correlarmi col dottor Neri e con il maestro Gualtiero Marchesi in una maniera più dignitosa. Insomma, tutti gli anglosassoni parlano di I feel it into my stomach, cioè sento qualcosa nello stomaco. Vorrei ricordarvi che ecco, siamo una struttura noi dell'intestino e del cervello intestinale molto complessa e molto affidabile. Io chiederei al dottor Neri, al dottor Koch, di aiutarci a così trovare un po' il filo, no? Per interagire con noi. Ad esempio, come riusciamo a capire che pancia e cervello sono d'accordo? Quando vogliamo magari recuperare energia, a quali alimenti diamo la precedenza, se dobbiamo magari affrontare un compito difficile, impegnativo, quei classici lavori che ci fanno spremere le meningi, a quali cibi diamo la preferenza? Dottor Koch. Ma guardi, il problema della qualità dei cibi a seconda della richiesta in urgenza dell'organismo è piuttosto semplice. Per alcuni versi è indispensabile mantenere i livelli della glicemia attraverso i carboidrati se c'è necessità di una attività intensiva ed immediata come richiesta calorica. Attività più prolungate, penso ai miei amici che fanno maratona, richiede invece tutto un altro tipo di alimentazione che comprenda anche una buona integrazione di fibre a lento assorbimento e abbia una certa quantità di proteine. Insomma, la verità è che sulla richiesta immediata servono carboidrati. Della nutrizione in generale durante la giornata invece potremo parlare successivamente, perché ci sono dei canoni che secondo la pancia dovrebbero essere osservati. Io direi che prima di iniziare credo sia opportuno fare una distinzione tra due termini che spesso usiamo come sinonimo, ma che in realtà indicano due situazioni ben diverse. Parliamo di fame e di appetito. Dottor Neri. Beh, è assolutamente corretto quello che lei dice, anche perché noi abbiamo due sistemi operativi diversi, intendo dire. Quello più antico, che ci portiamo da quando camminavamo a quattro zampe e non eravamo ancora arrivati a essere la specie animale che siamo oggi, cioè Homo sapiens, è il bisogno di alimentarci, di soddisfare un bisogno primario, la fame. E noi abbiamo, nel nostro cervello emozionale, un software dedicato con un hardware specifico che si chiama amigdala. Quello ce l'abbiamo per la fame. L'appetito, che ha un suo contenuto di aspettativa di piacere e di gradimento relativo alla ingestione del cibo, è gestito da un altro sistema operativo che si chiama neocorteccia, che ha un altro processore che va a un'altra velocità e che sta precedentemente nella corteccia orbito frontale, nella parte anteriore del nostro cervello. Interagiscono moltissimo, fanno molti discorsi fra di loro e poi fra di loro decidono come noi ci comportiamo a tavola. E come ci comportiamo a tavola? Lo chiedo a Gualtiero Marchesi. Come è diventato difficile, se intendo, perché ognuno mangia come vuole, no? E devo dire che c'è chi mangia con la pancia, infatti ricritico perché mangiano troppo con la pancia, e io vorrei che si mangiasse un pochettino di più col cervello. Vuol dire che si deve stare attenti a cosa si mangia. Certo che se partiamo da cosa uno dovrebbe mangiare, credo che dovremmo fare un esame tutti, perché non tutti siamo uguali, di conseguenza ognuno dovrebbe mangiare in funzione dello spreco di energia, del consumo di energie, insomma dovremmo farci un esame tutti. E sovente si vede la gente che mangia sempre le stesse cose, non so se questo può essere un indice da seguire. Io credo che soprattutto il compito mio, il compito del cuoco dovrebbe essere quello di cercare di fare le cose in maniera sana. La cucina prima è salute, se non è salute non è cucina. Dottor Koch, il maestro diceva ci sono delle persone che mangiano sempre le stesse cose. Questo si fa tante volte perché si ha paura, no, delle reazioni della pancia, o meglio del secondo cervello. È una strada percorribile o va comunque in ogni caso modificata? No, la strada è percorribile ma con cautela. In realtà c'è la necessità di variare l'alimentazione introducendo quote fisse di verdura. Sarebbe interessante sentire Gualtiero Marchesi anche che tipi di verdure ci consiglia, ma in dosi molto elevate nel corso della giornata, tra i 2 e 3 etti al giorno e di frutta. E poi vorrei ricordarvi che nel corso dell'alimentazione è opportuno una quota di proteine che usualmente è considerata ridotta rispetto a quelle che erano le esigenze di un tempo, si parla di 30-40 grammi al giorno, insomma bastano 2 fette di carne rossa a settimana per integrare regolarmente la nostra alimentazione. Poi è necessario bere molto, la dose delle 12 bicchieri di acqua al giorno è indispensabile. Se posso ricordare un piccolo consiglio ancora, attenzione perché la dieta, e noi siamo fortunatamente attenti a fare una dieta mediterranea e a consigliarla e possiamo effettuarla fortunatamente in Italia, grazie anche a Gualtiero Marchesi, con gusti e odori molto interessanti, è una dieta di prevenzione del cancro in tutti i distretti dell'organismo. Dunque stiamo parlando di salute, come si parlava in un istante fa. E noi andiamo a Verona, c'è Isidoro. Sì, buongiorno, niente, complimenti come al solito, ma io sono messo male perché penso di avere un sacco di cose, cioè, c'è la fame, c'ho l'appetito, c'ho il gusto di mangiare, e in conseguenza mi muovo poco e ho messo su qualche chilo, buon'età, non ho più 20 anni, no? Perché so, 48 anni e volevo qualche consiglio per riuscire almeno a, come dire, beh, a scegliere, a imparare, ma anche a trattenere questo appetito, che cioè, sono sempre seduto perché guido, no, durante la giornata, e per cui spesso volentieri apro il frigo e prendo un frutto, perché dicono anche la frutta fa bene, però io se ce n'ho ce ne mando, se no, capito? Allora io chiedo ai miei ospiti, ciascuno dal proprio osservatorio privilegiato, di aiutare Isidoro, che ci racconta una storia abbastanza comune, e inizierei proprio dal dottor Neri, che ci può dire: il cervello dovrebbe guidare le nostre scelte, a volte sembra invece che si sregoli, no, quella comunicazione che lo mette in contatto con il secondo cervello. Dottore. Ma secondo me Isidoro dice delle cose molto appropriate, cioè dice la verità, dice: io sento una serie di esigenze così forti, così intense, ma implica anche che sono capaci di appagarmi, di darmi piacere in tale misura, che poi moderare il mio accesso a queste fonti di piacere è difficile, sì. E questo è un messaggio vero, e quindi è un discorso che va fatto nei termini elementari ma efficaci di scegliere quantità limitate di ciò che mi dà piacere mangiare, e questo possiamo fare benissimo, e avere anche la capacità di tenere un pochino a controllo quei desideri così intensi, quelle pulsioni così aggressive che ci fanno allora quelli che poi in certe situazioni diventano disturbi del comportamento alimentare. Maestro, qua abbiamo bisogno di lei, perché Isidoro è un intenditore, a lui piace mangiare, ma si accorge che insomma mangia troppo, e d'altra parte queste pulsioni, che sono assolutamente sane, anche bello avere fame, in qualche modo pesano, non solamente a livello di chili, ma io proprio penso a livello di qualità di vita, perché in qualche modo uno poi si sente in colpa, capisce che sta esagerando. Ma dirò che è sempre molto difficile, io sono il primo a peccare, no? Perché predico bene e poi arrazzolo male. Tutti dovremmo sapere cosa fare, o almeno sappiamo cosa fare, però poi ci lasciamo trasportare. Io predico sempre che la cucina prima è salute, di conseguenza prima c'è il prodotto, che nella mia mostra ne espongo anzi diversi, alcuni piatti, e ho scritto questa frase: la rivincita della materia, la rivincita della forma, ovvero della materia. Però poi tutti, io credo che dovremmo recuperare questo contatto con la materia. Per quello trancio molte cose in sala, proprio per mettere in evidenza che un pollo, quando è bello ed è cotto bene, è un piacere anche da vedersi. Non è inutile fare tante cose, sminuzzare, servire tante complicazioni, quando si possono mangiare delle cose serie. Abbiamo bisogno del prodotto di qualità, e purtroppo invece il prodotto di qualità va sempre diventando più raro. Abbiamo bisogno della qualità e dell'informazione. E anche dell'informazione, naturalmente. Ma vorrei con questo proprio invitare ad andare sul prodotto, perché quando vediamo tutto storpiato e capiamo poco cosa mangiare, e capiamo poco della qualità, perché poi c'è la qualità e poi non riusciamo a comunicare cosa sia. Allora l'unico modo è rappresentarla. Io faccio addirittura un broccolo romano nella sua bellezza, lo cuocio e il maestro lo porta in sala e lo trancia in sala, in modo da far vedere che cos'è una bella cosa e una buona cosa. Grazie maestro per essere stato con noi. Adesso andiamo da Giovanna, ci chiama da Bologna. Buongiorno Giovanna. Buongiorno a voi. Siamo pronti, si accomodi. Sì, allora, a parte che volevo dire che mi sono identificata perfettamente nell'ascoltatore che mi ha preceduto, Isidoro. Sì. Veramente. Però la mia domanda è una curiosità. Sì. Quando noi sentiamo un forte desiderio di un certo cibo in particolare, una voglia per intendersi, questo segnale ce lo manda il cervello o la pancia? Brava Giovanna, allora giriamo la domanda al dottor Neri e al dottor Koch. Dottor Neri. Io direi che bisogna fare una compartecipazione agli utili, se fosse un approccio di un altro genere, nel senso che se la signora ha in mente in maniera selettiva e specifica quel tipo di cibo, il cervello dice: tu stai elaborando un segnale che è strettamente e indissolubilmente connesso all'aspettativa di piacere che tu hai circa l'assunzione di quel cibo. Ma per poter sperimentare questo piacere, per poterlo analizzare e fare tuo, hai bisogno di quel perfetto secondo cervello che è il nostro apparato digerente. E quindi noi andiamo dal dottor Koch. Secondo cervello, dica la sua. Credo che la cosa cosa che dice la signora sia molto interessante. In effetti il primo segnale è quello di una registrazione di piacere in associazione ad alcuni alimenti. Vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che il cervello intestinale è ricchissimo in serotonina, che come conoscete e come sapete bene è una molecola che provoca benessere. Ed è il 95% la serotonina è nel cervello intestinale. Dunque è possibile che ci sia un collegamento netto con dei segnali che dalla digestione del precedente alimento favorito passino poi al cervello per la registrazione mnemonica del fatto, il famoso segnale di cui parlava il dottor Neri. Caterina, buongiorno. Ribenvenuta, buongiorno a lei. Grazie. Dalla provincia di Messina, da dove in particolare? A Leoli. Che bellezza. Caterina, lei cosa mangerà oggi? Di che cosa ha voglia? Io veramente oggi ho cucinato un po' di broccoli con le patate, faccio la pasta. E poi di secondo niente, perché altrimenti io quando mangio la carne mi si gonfia la pancia. Siccome ieri sera ho mangiato molto pesce, molto buono. E poi mi succede qualche volta che quando mangio, forse abbondante, non lo so, mi si gonfia la pancia, dipende forse di quello che mangio. Sì, quindi la sua domanda era relativa a questo gonfiore di pancia? Esatto, mi si gonfia la pancia e poi bisogna mangiare di più la mattina, a pranzo, la sera. Mm. Siccome io ho problemi di colesterolo a 2,75, sì, vorrei sapere anche se tutto quello che mangio a volte può influire anche sulla tiroide, perché ho fatto un intervento alla tiroide, quindi devi stare un po' a dieta. Quindi una domanda complessa che arriva da Caterina in vacanza nelle Eolie, precisamente a Vulcano, che gira al dottor Koch. Dottore, non vale avere queste domande dalle isole Eolie mentre noi siamo qui al lavoro, non vero, vale. Vero, vero, già mangia la pasta. Complimenti a Caterina, però Caterina ha sparato una raffica di 6 domande diverse, secondo me. Ma noi proviamo a rispondere a quelle che attengono proprio alla trasmissione di oggi. Per esempio, mi interesserebbe questo discorso del gonfiore dopo mangiato intestinale, è una cosa molto interessante e dipende dal fatto che c'è talora, ammettiamolo, un picco deragliamento anche nel cervello intestinale. In effetti, gli automatismi del cervello intestinale, mi scusi, ma io difendo la mia parte, che è molto raffinata, e noi giochiamo tra fibre nervose e un sistema di circa 30-40 piccole molecole neuroendocrine che giostrano per la motilità intestinale, per interagire col sistema immunitario e con il sistema endocrino. A proposito della tiroide, noi nell'intestino c'è la massima dose di cellule ormonali. Bene, il punto centrale è che nel momento della digestione il vuotamento dell'intestino, il vuotamento dello stomaco possono subire dei deragliamenti. Ad esempio il gonfiore può dipendere dal fatto che avviene una aumentata peristalsi, vuotamento cioè dell'intestino e del colon, che costringe l'intestino, nell'intestino l'aria in esso contenuta. Insomma, la sensazione di gonfiore dipende da una produzione di onde di motilità intestinale che possono intrappolare l'aria e in effetti dare fastidio. Su questo poi dovrebbe intervenire Giuseppe Neri, perché ma infatti adesso facciamo parlare l'altro cervello, vero dottor Koch? Dottor Neri, la tiriamo in causa. Maurizio Koch ha messo a fuoco questi aspetti fondamentali e io penso che per la signora, che non soltanto se si è in vacanza, secondo me dall'inflessione lei ci vive, beata lei, alle Eolie, il discorso è che l'influenza che questi neurotrasmettitori e questi peptidi prodotti a livello intestinale possono avere sia sulla acquisizione di ulteriore cibo, sia sulla modificazione del comportamento alimentare, sono tali che poi la signora chiede aiuto perché vuole sapere, ma io vorrei mangiare in questo modo, mi piacciono queste cose, di solito faccio così, ma questo pedaggio della pancia gonfia lo devo pagare sempre? E giustamente Koch sottolineava che anche la interazione tra il tipo di alimentazione e i componenti di tipo ormonale, la signora problema di tiroide, è tale da provocare delle risposte diverse a seconda poi dei casi che ci troviamo ad affrontare. Io voglio leggervi Maria Chiara, 24 anni, ci scrive: mi sono abituata nel tempo a mangiare tanta verdura e soprattutto l'insalatina di carotine, così poco gradita, e adesso mi piace, basta che la mente si abitui. Dottor Neri, è vero? È così? Beh, noi abbiamo degli efficientissimi questi dei pulsanti che si chiamano delete, erase, cancella, e poi abbiamo la possibilità, lo diceva un neurologo boemo all'inizio dell'altro secolo, che prima di passare alla psichiatria faceva il neurologo, si chiamava Sigmund Freud, e lui aveva elaborato questa teoria importantissima della rimozione, che è uno dei modi con cui noi ci difendiamo rispetto a cose che è difficile sopportare. Io penso che nel suo equilibrio della giornata e del comportamento alimentare la signora abbia trovato una via che la fa stare in un ambito di autosoddisfazione e di star dentro i binari, come diceva Koch prima. Questo confligge un po' col principio di piacere, ma non è detto che quella debba essere la guida del nostro comportamento anche alimentare. Roberto da Milano, buongiorno a lei. Premetto, io diciamo che seguo una dieta abbastanza, diciamo, rigida, perché faccio attività sportiva pur avendo 50 anni. Mi piace cucinare. Beh, mi pur piace avendo 50 anni, pur avendo, avendo 50 anni, viva Dio. Avendo 50 anni, sì. Direi, è chiaro che insomma io ho imparato una cosa girando molto per il mondo, che in Italia diciamo si dice che si mangia per piacere, mentre all'estero si mangia per necessità, quindi questa è una grossa differenza che noi italiani applichiamo. Direi in linea di massima, se io dovessi guardare quello che è la voglia, mangerei veramente le cose più orribili, cioè dalle lasagne al gorgonzola, col pane caldo, alla pancetta, al forno, tutto quello che praticamente sarebbe stravietato. Sì. Volevo però chiedere questo, diciamo, se è vero agli illustrissimi professori che una dieta con 5-6 mini pasti giornalieri, di quelli dove praticamente mangiamo le fettine di tacchino, molto diciamo salutare, la verdura, l'insalata, pochi condimenti, è effettivamente un rimedio sano, ed è, ho letto anche su una rivista scientifica americana recentemente che in effetti si pare che si sia scoperto che abbiamo davvero un secondo cervello nel sistema. Ma noi ce l'abbiamo qua in linea, come pare, abbiamo il dottor Koch. Mi scusi Roberto, Cioè, voglio dire, dottor Koch, lei è il secondo cervello. No, io vorrei essere il secondo cervello e sostengo questa posizione, signor Roberto. Allora Roberto, quindi andiamo a chiedere se tutti questi piccoli pasti che lei ce li ha descritti, devo dire, con tutti alimenti con poco appeal, o sbaglio, che Roberto? Sì, un po' l'ho trovato sommato, un po' sulla via della mortificazione. Ma oddio, è vero, perché tutto sommato la mente, credo, è importante si debba abituare a questo tipo di criterio alimentare proprio, diciamo così, in ragione di una virtù salutare, ecco, quindi tutto sommato lo sforzo si può fare per quello. Allora chiediamo al dottor Koch e al dottor Neri di commentare, di dare una risposta a Roberto. Dottor Koch. Sì, grazie. No, credo che Roberto abbia ragione, e mi permette anche di collegarci con quello che diceva Maria Grazia prima. Insomma, è possibile modificare il nostro comportamento alimentare, e questo vale anche per il signor Isidoro che ha aperto il fuoco questa mattina. Beh, noi possiamo, secondo me, modificarlo anche con successo, passando a comportamenti che siano meglio consoni da un punto di vista nutrizionale, il signor Roberto è un atleta, ma anche da un punto di vista, come si chiama, di salute, no? Si parlava prima con Gualtiero Marchesi. Sì. E questo discorso di 5-6 pasti è naturalmente una delle possibilità per ridurre lo stimolo appunto di una serie di sostanze neuroendocrine che provocano centralmente la sensazione di fame, dunque anche per ridurre quantitativamente le calorie nel corso della giornata, purché, e c'è sempre un purché, come diceva Roberto, ci siano questi 5-6 pasti siano costituiti da alimenti equilibrati, diciamo, e caloricamente non eccessivi. Dottor Neri, le passo la palla. Beh, il passaggio è arrivato, io ero in posizione favorevole per fare gol, nel senso che Roberto dice una cosa che io capisco bene, però bisogna mettersi anche d'accordo su cosa vogliamo fare, nel senso, io rispetto moltissimo per esempio questa ipotesi, che direi sportivo-ascetica, dell'approccio all'alimentazione, cioè se la priorità numero uno è un approccio salutistico, che io rispetto molto, che garantisce anche una qualità di vita elevata grazie all'attività sportiva, nulla da eccepire, è una strada che uno percorre con della scelta che ha fatto. C'è la visita medica di controllo, dobbiamo fare tutti i test, tra i test c'è anche l'elettrocardiogramma. Non ti preoccupare, ti passo le risposte. L'elettrocardiogramma è quello che ti attaccano le ventose al petto, serve per vedere come ti funziona il cuore, no? Ah, pensavo che era quello per vedere se avevi il petto appiccicoso.

diciamo, è variabile. Alcune volte si ha una buona risposta, altre volte invece l'infiammazione diventa cronica, si forma questo nodulino più o meno fastidioso che sta lì, e allora è opportuno ricorrere a una terapia chirurgica, cioè si svuota direttamente questo granuloma e chiaramente regredisce totalmente la patologia, insomma. Professore, quindi se il problema persiste si ricorre all'intervento, così possiamo dire. Volevo chiederle sulle cause, ho capito che sapete poco, ma riguardo ai fattori di rischio, alle persone che sono più predisposte ad avere questo problema, le avete individuate? Sicuramente chi soffre di blefarite va più incontro a forme di calazio, e la blefarite è l'infiammazione del bordo palpebrale. Sì. In questo, come fattori di rischio, può sembrare strano, ma sicuramente intervengono anche difetti di vista come l'astigmatismo e l'ipermetropia, che causano spesso, possono causare delle blefariti. Poi c'è una causa che tutti conoscono, a cui noi ricorriamo spesso, però dire quale sia effettivamente la sua influenza è difficile dirlo, che è, diciamo, un'alimentazione non corretta, un uso eccessivo di cioccolate, come normalmente si dice, oppure di grassi e via dicendo, ecco. Non è che sia la causa specifica, sicuramente anche questo interviene. Insomma. Professore, vorrei una risposta per Carla da Rovigo, che ci scrive: ho un orzaiolo, credo non sia un calazio dalla vostra descrizione, posso mettere le lenti a contatto o è meglio per un paio di giorni evitarle? No, è meglio evitarle. Quando la palpebra o la congiuntiva sono infiammate, le lenti a contatto le lasciamo un attimo riposare, inforchiamo gli occhiali. Però, professor Cruciani, quello che possiamo dire di questo calazio è: proviamo con le pomatine locali, se il problema persiste l'oculista è la persona più indicata per suggerirci se è il caso di intervenire chirurgicamente. Perfetto, sì. Ho imparato. Professor Cruciani, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei e ai radioascoltatori. Siamo in chiusura, ma prima di salutarvi voglio salutare il dottor Marco Temporin. Dottor Temporin, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Medico, nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva. Dottor Temporin, viene chiamato cibo dei filosofi. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'orzo. Ippocrate lo chiamava così perché è adatto sia al pensiero che all'esercizio fisico. È quello che ci vuole per noi. Allora, bene bene, ci racconti tutto di lui. Allora, c'è da dire che dell'orzo molti di noi lo conoscono solamente come succedaneo del caffè in polvere per i bambini o quelle persone che mal tollerano il caffè stesso. In realtà è un cereale nutriente che, a differenza di quello che si possa pensare, va molto bene anche in questa stagione estiva. Questo perché l'orzo è considerato un cereale rinfrescante, sì. Quindi ottimo nella stagione calda perché ha un'azione decongestionante dei visceri e quindi va benissimo anche per i bambini. L'acqua dell'orzo va molto bene anche per i più piccoli quando soffrono un po' di stitichezza e soprattutto può essere consumato nelle zuppe, ma molti non sanno che può essere assunto anche freddo al posto della solita insalata di riso. Sì, sicuramente, perché di insalata di riso devo dire che arrivati a questo punto dell'estate ci esce un po' dalle orecchie. Non se ne può più. Vero che non se ne può più. Prosciutto e meloni, insalata di riso e caprese, che sono piatti magnifici che però alla fine mangiamo sempre quelli in estate, per cui è un'ottima idea sostituire con l'orzo il riso per fare un'insalata, magari con le verdure. E poi... sì, anche nei soggetti che soffrono per esempio di colon irritabile, l'orzo perlato non è assolutamente un irritante, quindi è un cereale che può essere assunto tranquillamente. Dottor Temporini, invece adesso ci occupiamo di un piccolo problema. Alcune persone sono magari arrivate adesso in vacanza, la voglia di tintarella le ha fatto magari così dimenticare di rinnovare la protezione con la crema solare, sono state un pochino al sole più del necessario e si torna a casa con la pelle che scotta. Allora, dottor Temporin, questo lei lo so che da medico mi dirà assolutamente non va fatto, il sole va preso con gradualità, mai nelle ore centrali, ma occupiamoci di chi ha fatto un piccolo errore. Diciamo che per chi si è addormentato sotto il sole, definiamolo così, molto spesso poi il ritorno a casa può essere un po' doloroso, per cui in questi casi la natura ci viene incontro con una pianta che è eccezionale, che è l'aloe vera. L'aloe vera è una pianta il cui gel che viene estratto ha delle proprietà rinfrescanti, ma soprattutto cicatrizzanti e decongestionanti. Ecco che va bene per le scottature, per i piccoli eritemi solari, va bene anche per altri tipi di scottature in quanto ha questo effetto rinfrescante e cicatrizzante. Per cui possiamo utilizzarla tranquillamente sulla nostra pelle, anche per i più piccoli, perché ci dà una freschezza che magari possiamo riposare bene durante la notte dopo il sole. Dottor Temporin, grazie a lei. Mi hai capitato di addormentarsi sotto il sole? Non ancora. Va bene, allora mi raccomando, sveglio, stia attento, dottor Temporin. Buona giornata a lei. Arrivederci a tutti, saluti. E per oggi è tutto, cari amici. Noi ci sentiamo e vi do appuntamento lunedì dopo il GR delle 11. Buon fine settimana da Nicoletta Carbone.